La squadra mobile di Caltanissetta diffonde il filmato di uno scippo a danno di un'anziana, denunciati a piede libero due minorenni di 15 anni. Eccola qui, attenzione, osservatela. Lei è una donna, cammina e la telecamera nascosta la segue. Poi ecco ancora l'obiettivo. Lei non sfugge, è sempre sotto fuoco. E così anche sul vostro televisore. Poi ecco un ciclomotore in corsa. Lo stop, fulminante, una mano e le grinfie che arraffano una collana dal collo della malcapitata. Spaventata, poi sbalordita. Scippo, tecnicamente furto con strappo, articolo 624 bis, secondo comma del codice penale. A Caltanissetta, in via Santa Caterina, nel centro storico. Lei è una signora di 66 anni, grassoccia. Quasi impossibile che sarebbe stata capace di reagire, svincolarsi o inseguire i suoi assalitori. Tra le mani ha dei sacchetti, forse è uscita fuori da casa per la spesa e marcia verso il rientro. Forse i due malviventi hanno adocchiato la sua collana, come falchi che dal cielo puntano la preda e poi volano in picchiata a colpo sicuro. E così è stato, però le telecamere del servizio dell'ordine e della sicurezza pubblica sono state provvidenziali. Infatti i poliziotti della sezione Cobra della squadra mobile di Caltanissetta, capeggiata da Giovanni Giudice, hanno subito indagato e i due scippanti a cavallo del ciclomotore sono stati scoperti e denunciati a piede libero. Si tratta di due minorenni di 15 anni. Le iniziali dei loro nomi sono uno IM, come io mai, e l'altro FE, come forse è stato lui. I due sono stati interrogati in presenza dei loro genitori e hanno ammesso le loro responsabilità. Altre indagini sono in corso per riscontrare se altre rapine dello stesso genere sono state compiute a danno di altri anziani. Mm-hmm.